Grazie Noemi, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuto anche da me. Come Noemi diceva, questa mattina e come ogni domenica, sia mattina che sera, come il pastore Mirko ci ricorda sempre, quando sale su questo palco, apriremo la parola di Dio e leggeremo dalla sua parola. Sapete che lo stesso Gesù, pensate, in uno dei Vangeli, dice che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Ecco perché è così importante per noi leggere questo libro, leggere la Bibbia, leggere la sua parola, perché non di solo pane vivremo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Ecco perché è importante, perché ci nutre. E questa mattina noi vogliamo nutrirci e vogliamo permettere alla parola di Dio di nutrire il nostro spirito, perché anche il nostro spirito ha bisogno di mangiare, sennò poi va in deficit, no? E questa mattina leggeremo una storia di un italiano come noi. E questo italiano come noi, ad un certo punto della sua vita, ha riconosciuto il suo bisogno spirituale. Ha riconosciuto che aveva bisogno di Gesù. Aveva bisogno di ricevere Gesù nella sua vita, aveva bisogno che Gesù diventasse il suo salvatore, non il salvatore degli altri, ma il suo salvatore, perché questo avrebbe dato il vero valore e il vero significato alla sua vita. Un po' come oggi i nostri fantastici ragazzi, posso dire che sono dei ragazzi, sono bellissimi, Gianni, Rosa, Michele e Giuseppina. Pensate, Michele e Giuseppina hanno più di 50 anni di matrimonio, 52 anni di matrimonio alle spalle, e oggi si battezzano insieme. Bellissimo. Io lo trovo così romantico. Non ha importanza quanti anni di matrimonio tu hai alle tue spalle, Gesù può scrivere una nuova storia attraverso di te. E io voglio ringraziarvi perché siete un esempio per noi. E come loro, Cornelio, questo italiano che leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, aveva invitato l'apostolo Pietro ad andare a casa sua. E non aveva solo invitato Pietro ad andare a casa sua per vedersi loro due da soli, ma aveva invitato tutti i suoi amici, tutti i suoi parenti, un po' come hanno fatto i nostri battezzandi di questa mattina. E quindi andiamo su... Ah, c'è anche Cecilia in prima fila, fantastico. Andiamo subito quindi a leggere da Atti 10 quello che accade una volta che Pietro riceve l'invito da parte di Cornelio. E lo leggiamo dal verso 24. L'indomani Pietro con tutti i suoi amici arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando e leggete un po' come vi ho detto, aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi. Sapete perché Pietro aveva invitato i suoi parenti, i suoi familiari, i suoi amici più intimi a quell'incontro? Scusatemi, Cornelio aveva invitato i suoi amici, i suoi parenti più intimi a quell'incontro con Pietro? Non solo perché lui voleva condividere quello che era la sua scelta di aver deciso di arrendere la sua vita a Gesù e abbracciarlo nel proprio cuore e battezzarsi, ma lui li aveva invitati perché Gesù e la sua grazia, Gesù e il suo amore vanno condivisi. Ecco perché Gianni, Rosa, Michele e Giuseppina questa mattina ti hanno invitato, non solo per vedere questo bellissimo giorno con loro, festeggiarlo, sostenerli, fare il tifo per loro, ma perché Gesù è anche per te. Il suo amore è per te. La sua grazia è per te. E non c'è ricchezza più bella e più grande di questo. E alla fine della storia che andremo a leggere, vedrete un po' che cosa accade a questi familiari e questi amici. Non vi anticipo niente. Leggiamolo insieme, dal verso 25. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo, ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Interessante vedere come San Pietro, incoraggia in carne ed ossa un altro uomo a non inginocchiarsi davanti a lui per non essere adorato, perché anche lui era un uomo. Mi piace questa, la parola di Dio ci dà tante piccole pillole da poter mangiare ed essere cibati. Conversando con lui, entrò e trovate molte persone lì riunite, disse loro: voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare in casa sua. Ascoltate ora. Ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Quante volte ci sentiamo così sporchi, non degni neanche di pensare a Dio, che neanche in chiesa riusciamo ad entrare? È vero? E quindi rimaniamo fuori, in questo caso come oggi, ad una porta di vetro scorrevole, che è anche carina, in genere la porta di una chiesa è un po' più pesante, un po' più che incute timore, perché pensiamo e diciamo che se dovessimo per caso entrare in chiesa, siccome noi siamo entrati, il tetto ci crollerebbe addosso. È vero? Quante volte l'abbiamo pensato o l'abbiamo detto ai nostri amici? Questa mattina c'è una piccola verità che possiamo mangiarci, perché la parola di Dio nutre il nostro spirito e questa verità ci dice che nessun uomo può essere considerato impuro o contaminato e non potersi avvicinare a Dio, ma ognuno lo può fare, perché Dio è a portata di mano. La sua mano non è troppo corta per salvare la nostra anima. Punto numero uno di questo messaggio di questa mattina: Gesù si è avvicinato a te. E più andremo avanti, e più scopriremo questo che cosa significa. Lui si è avvicinato a te affinché Dio potesse essere a portata di mano. Verso 29, continuiamo a leggere. Perciò, essendo stato chiamato, dice Pietro, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi chiedo, qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare? E Cornelio disse: 4 giorni or sono stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, le tue elemosine sono ricordate davanti a Dio. Io lo so che qui davanti a me, in questa sala, e online a casa per chi ci sta seguendo dal computer, ho delle persone che almeno una volta nella loro vita hanno pregato a Dio. Io lo so. E sapete perché? Perché siamo tutti uguali. Siamo tutti quanti noi esseri umani alla ricerca di significato e di valore. Per questo cerchiamo qualsiasi cosa che possa rispondere al bisogno che noi abbiamo nel nostro cuore. E sapete cosa sempre la parola di Dio ci dice in Romani al capitolo 3 verso 23? Che tutti quanti noi siamo peccatori e siamo privi della gloria di Dio. Questa è la verità, ma, aggiunge, siamo gratuitamente giustificati. Però sapete qual è la difficoltà? È che tante volte noi gridiamo a Dio: Signore! E poi ci arrabbiamo, no? E rimaniamo un po' delusi, perché forse Lui non ci risponde, o noi pensiamo che Lui ci debba rispondere e non ci ha ancora risposto, e forse siamo qui stamattina e siamo un po' arrabbiati con Lui, e siamo un po' delusi da Lui, perché stiamo ancora aspettando quella risposta di quel grido che abbiamo fatto forse 40 anni fa. Eccola qui la tua risposta. L'abbiamo appena letta, ne stiamo parlando. Nonostante noi siamo separati da Lui, siamo giustificati gratuitamente mediante il sacrificio di Cristo Gesù. Il nostro grido è stato ricordato davanti a Dio. Il tuo grido è stato ricordato davanti a Lui, perché in Cristo Gesù noi abbiamo la nostra redenzione. Continuiamo a leggere. E infatti sapete cosa dice, cosa dice nel verso 34 di Atti 10? Che allora Pietro, cominciando a parlare, disse proprio questo: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali. Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Gesù è per tutti. Gesù, punto numero due, è per te. Gesù è per te. E io, se devo essere onesto e sincero con tutti quanti noi questa mattina, io non conosco la tua storia. Io non so, magari forse la tua storia non è una bella storia, ma io conosco la mia storia. E sapete cosa la mia storia mi ha sempre detto? Che io non ero degno di poter entrare alla presenza di Dio, che la mia vita non aveva valore e significato, che io ero sporco, che io ero un peccatore, che le mie scelte della mia vita non mi permettevano di poter essere gradito davanti a Dio. Questo è quello che la mia storia mi diceva. Non era una bella storia. E poi un giorno, gennaio 2002, mi sono ritrovato su di una sedia, in una stanza, in un locale un po' più piccolo, molto più piccolo di questo, e io ricordo di essermi seduto dietro, perché mi vergognavo, nessuno mi doveva vedere, nessuno doveva sapere che ero lì. Eppure Gesù mi ha visto e lui si è avvicinato a me quel giorno. E sapete che cosa mi ha detto? Ha detto: ehi Antonio, io conosco la tua storia, io ti vedo, e la tua storia effettivamente non è bella, e tu lo sai, ma io ho una nuova storia per te. Io voglio scrivere una storia nuova attraverso della tua vita. Gesù conosce la tua storia. E forse non è una bella storia, ma lui ha una nuova storia per te. Come ha una nuova storia per Gianni, per Rosa, per Michele e Giuseppina. E lui vuole scriverla con te. E loro hanno scelto di dire: sì, io voglio scrivere questa nuova storia. Non mi importa quanti anni ho, non mi importa cosa penseranno gli altri, non mi importa se fino ad ora la mia storia mi ha detto queste cose, io so che tu hai una nuova storia per me e io voglio afferrarla. Continuiamo al verso 37. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene, leggete adesso con me, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Gesù guarisce tutti quelli che sono sotto il potere del diavolo. E forse tu questa mattina sei arrivato qui e ti senti sotto il potere del diavolo. E qual è il problema? Gesù ti guarisce. Gesù guarisce la nostra vita dal potere del diavolo. Lui ci libera. Lui ci rende veramente liberi di poter scegliere una vita piena, abbondante, che scriva una storia che faccia la differenza, non solo per noi, non solo per la nostra casa, ma per un mondo intero. Come è accaduto per la vita di Cornelio. Leggiamo ancora quello che Pietro gli dice: e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la resurrezione dai morti. E ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti, ascoltate adesso, che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Che cosa voleva dire Pietro a tutta la famiglia di Cornelio e a tutti i suoi amici che erano lì riuniti come noi questa mattina per ascoltare ogni parola dalla parola di Dio? Ehi, Gesù è vivo! Io l'ho sperimentato! Lui è vivo per me. Io sono un po' così, non vi spaventate, va tutto bene. Lui è vivo, veramente vivo! Non è solo per me, è anche per te, è anche per voi. Voi potete sperimentarlo. Che cosa significa questo per noi oggi? Significa quello che nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, è scritto, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. E infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Punto numero 4, Gesù ti salva. Lui salva la tua anima. Che cosa significa questo? Che nonostante come uomini noi abbiamo deciso di vedercela da soli, no? Soprattutto ai maschietti gli piace, io sono un uomo fatto da me, no? Noi siamo indipendenti, noi non abbiamo bisogno di aiuto, noi ce la possiamo fare perché siamo forti, siamo dei duri e niente ci abbatte. Che cosa significa questo? Che il peccato, perché questo è il peccato, ok? Il peccato è la disubbidienza a Dio. Non è solo uccidere qualcuno. Il peccato è dire a Dio, io non ho bisogno di te, io me la vedo da me, ce la faccio. La verità è che nonostante noi non siamo degni, siamo sporchi, non possiamo avvicinarci a Dio perché il peccato ci separa. Quello che vuole dire Pietro alla famiglia di Cornelio e a noi questa mattina è che Gesù, con la sua croce, è venuto vicino a noi, si è avvicinato a me e a te, ha distrutto il potere del peccato e ha permesso a noi di riavvicinarci a Dio. Questo è quello che Pietro sta condividendo con Cornelio, con la sua famiglia e con i suoi amici. Questo è quello che Gesù vuole condividere con te questa mattina. Che non ha importanza da dove vieni, non ha importanza la tua storia, Lui ha una nuova storia. E in Lui, io e te, possiamo avvicinarci a Dio, perché Lui, con il suo sangue, come abbiamo cantato, che ha pagato il prezzo del mio peccato e del tuo peccato, per permetterci di ritornare alla presenza di Dio. Questa è la vera buona notizia per me e per te oggi. E leggiamo insieme cosa accade al verso 44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. Lo Spirito Santo è sceso questa mattina su tutti noi che stiamo ascoltando la sua parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse, c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. C'è forse qualcuno che possa negarti nei prossimi battesimi che faremo tra qualche mese di scendere in questa vasca che stiamo per scoperchiare ed essere battezzato? Per Cornelio, i suoi familiari e i suoi amici nessuno ha potuto impedirlo. Nessuno potrà impedirlo. Perché Gesù è per te. Perché Gesù ci salva. Perché Gesù è vivo e perché Lui vuole salvare la nostra vita. E sapete cosa mi piace di questa storia? Non ha importanza quante volte la leggo, Gli abituè che mi conoscono sanno che ormai la riprendo spesso questa storia, ma ogni volta che la leggo c'è sempre qualcosa di nuovo che mi tocca e che mi colpisce. Sapete cosa? In fondo è stato Cornelio che ha invitato Pietro. È stato Cornelio, lui aveva scelto di rinunciare al peccato, lui aveva scelto e riconosciuto che c'era un bisogno spirituale nella sua anima, lui aveva deciso di arrendersi a Gesù, riconoscerlo come Salvatore e vivere una nuova storia che lui avrebbe scritto attraverso di lui. Eppure, tutta la sua famiglia ha scelto di battezzarsi. Eppure, tutti i suoi amici hanno scelto di battezzarsi. Chissà. È vero, oggi sono Gianni, Rosa, Michele e Giuseppina che hanno scelto di vivere e consacrare definitivamente, ufficialmente, davanti a tutti, che la loro vita appartiene a Dio. Chissà, la prossima volta ci sarai tu, come è successo per i familiari di Cornelio e per i suoi amici. Gesù fa il tifo per te. Gesù ti ama. Gesù vuole salvare la tua anima. E ora stiamo per vivere il battesimo di questi quattro coraggiosi. E io vorrei pregare. Vorrei pregare per noi, perché io so che Gesù ha parlato al nostro cuore. E vorrei che ci potessimo alzare in piedi come segno di onore e rispetto davanti a Lui, che potessimo chiudere i nostri occhi e potessimo insieme pregare. Signore Gesù, grazie per chi tu sei, grazie perché sei venuto per salvarci, grazie perché sei venuto per guarire il nostro cuore, Signore Gesù. Io prego, Spirito Santo, che tu possa parlare a noi nel tempo che ci rimane, per farci vedere ogni cosa buona che Gesù ha preparato per noi. Ti amiamo, Signore Gesù. Amen.